e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. 10:34, io ci sono e voi ci siete? Se ci siete, fatevi sentire, mandatemi un messaggio, un WhatsApp, chiamate l'800 24 0024. Ci stiamo avvicinando alle vacanze, molti di voi sono in attesa di partire, e allora condividete il vostro personale conto alla rovescia. Quanto manca, quanto vi manca alla partenza? Meno 10, meno 5, meno 2, e soprattutto come vi sentite? C'è chi si sente quasi sulle ginocchia, molto stanco, chi invece è già un pochino più rilassato perché riesce a rallentare progressivamente il ritmo. Intanto comunque siamo qua insieme fino a mezzogiorno. 349-238-6666, se vi venisse voglia di mandarmi un whatsappino o scrivermi un messaggio, il nostro numero verde è come sempre a disposizione. Oggi in apertura parleremo di sicurezza nella gestione del nostro conto in banca quando andiamo in ferie, quindi dati personali, password, carte di credito, tra poco tutti i consigli della nostra esperta. E poi in tema di vacanze vi racconterò di una bella iniziativa, il gelato sospeso. Conosciamo il caffè sospeso, bene, adesso c'è il gelato, vi daremo tutti i dettagli, è una cosa carina. E come sempre spazio anche ai temi di cuore. Oggi abbiamo invitato Alberto Pellai, è un medico e ricercatore all'Università di Milano, scrittore di grande successo. Con lui parleremo di figli, in particolare degli adolescenti in vacanza, che sono spiaggiati e sempre più connessi. E voi che fate? Come li state organizzando, o sono loro che organizzano la vita a voi? Raccontatecelo. Hacker in azione su Unicredit, violati i dati di 400.000 clienti, password al sicuro, assicura la banca, i conti correnti non sono a rischio. Unicredit nel mirino degli hacker, violati i dati di 400.000 clienti, ma i conti non sarebbero sono a stati violati alcuni. Beh, è una notizia che non avrà sicuramente lasciato indifferente i tantissimi clienti di questa grande banca. Unicredit ha reso noto ieri di aver subito un'intrusione informatica nei mesi di giugno e luglio 2017, ma anche precedentemente, a settembre e ottobre 2016. La banca parla di un accesso non autorizzato ai dati di clienti italiani, riguarderebbe solo clienti che hanno richiesto prestiti personali. Gli interessati sono stati quantificati nel numero di circa 400.000 clienti. Questo è un fatto sicuramente grave. L'istituto, tra l'altro, ha formalizzato un esposto presso la Procura della Repubblica di Milano, ma per fortuna in questo caso non dovrebbero esserci danni per i clienti. Non sono stati interessati all'attacco alle password, le credenziali che permettono di accedere ai conti, e sarebbero stati soltanto sottratti dati anagrafici e codici IBAN. Noi però, per essere ancora più sicuri, abbiamo chiamato un'amica, la nostra Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo, che saluto e ringrazio per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Intanto, convocazione per i nostri amici che ci stanno seguendo, 800 24 00 24, se avete dei dubbi, delle domande in merito a questa notizia, se siete preoccupati, se siete anche a conoscenza, in più in generale anche, dei rischi informatici legati all'uso del conto corrente e delle carte di pagamento, noi siamo qua. Anche se volete raccontarci se avete avuto qualche brutta esperienza e soprattutto come vi siete comportati. Intanto, Anna Vizzari, anche voi di Altro Consumo avete subito pubblicato sul vostro sito una news con tutti i consigli utili per i potenziali interessati. Sì. Intanto precisiamo che la banca si è impegnata a contattare gli interessati, sì, ma che per ragioni di sicurezza non potrà farlo con posta elettronica o telefonate dirette. Quindi è bene, certo, questo lo dico perché è bene non abboccare, e quindi diffidate da comunicare di questo tipo legate proprio a questa notizia. Assolutamente, ecco. Anzi, questo è il primo consiglio da dare, perché da quello che risulta le informazioni che sono state carpite sono soprattutto i dati personali e il codice IBAN di questi clienti, quindi ciò significa che con queste informazioni dei malintenzionati potrebbero anche inviare delle mail che potrebbero sembrare, insomma, veritiere, visto che comunque sono informazioni corrette. Quello che noi diciamo sempre è di non abboccare al phishing, quindi sostanzialmente di non rispondere a queste mail, anche se possono sembrare molto veritiere, perché appunto la banca non contatta comunque i clienti in questo modo, e quindi se ci sono dei dubbi di contattare direttamente la banca, anzi diciamo che Unicredit ha anche messo a disposizione un numero verde dedicato, che è l'800-323285, a cui appunto si può chiamare per avere informazioni se si hanno dei dubbi. L'altro consiglio che comunque è quello comunque di tenere sotto controllo i movimenti del conto corrente, anche quelli passati, perché da quello, certo, che risulta ci sono stati anche degli c'è stato un altro attacco a fine anno, a novembre, quindi in realtà ci potrebbero essere state le operazioni un po' strane anche prima, quindi controllare anche per il passato se ci sono degli addebiti un po' così appunto non fatti bizzarri dal cliente, esatto, bizzarri, diciamo punto, così, ecco. Bravissima, a questo punto contestarli con un reclamo per iscritto alla banca, la quale deve rispondere entro 30 giorni. Se la risposta è negativa o comunque non arriva, si può fare ricorso all'arbitro bancario e finanziario. Okay. Diciamo che in questi casi la legge dice che comunque la banca deve garantire la sicurezza informatica dei propri sistemi, quindi sostanzialmente se il cliente contesta questi addebiti ha diritto ad avere il rimborso delle somme. Anna Vizzari, faccio un passetto indietro, sì, perché abbiamo detto che la banca non, per ragioni di sicurezza, non potrà contattare gli interessati con posta elettronica o telefonate dirette, quindi non credete a delle comunicazioni strane. Ma come comunicherà la banca? Tramite posta cartacea, dal profilo online dell'home banking? Come saranno avvertiti? Ecco, noi pensiamo che appunto verrà utilizzato il canale dell'home banking, sì, o probabilmente anche quello cartaceo, quindi una lettera che arriva a domicilio del cliente da parte della banca in cui si fa menzione di questo numero verde dedicato a cui appunto poi chiamare per avere informazioni. Questa è l'idea che ci siamo fatti. Intanto, se volete anche voi delle informazioni da Anna Vizzari, chiamateci. Ma Anna Vizzari, ci sono dei rischi se una persona estranea entra in possesso del nostro IBAN abbinato ai dati personali? Io penso di no, al massimo ci fa un bonifico. Sai che qua, sì, in Italia comprano case senza che uno lo sappia, fanno assicurazione, magari uno mi fa un bonifico e io vado in... Nel senso che effettivamente queste informazioni così da sole probabilmente non possono essere utilizzate in maniera fraudolenta, ecco. Però appunto non sono un hacker, non sono esperta di queste cose, potrebbe essere che sono dei pezzetti mancanti di informazioni che sono già state acquisite dagli hacker in altre situazioni, quindi potrebbero essere utilizzate per completare appunto questo iter di frode, oppure come dicevo prima potrebbero essere dei dati che vengono utilizzati per fare phishing, quindi delle mail un po' più vere di quelle che di solito arrivano, in cui si fa menzione del nostro nome, del nostro indirizzo, del nostro codice IBAN. A quel punto si è anche più tentati di dire ah sì, e lui mi conosce, certo, ecco. Invece no, non crediamoci, sì, no, non rispondiamo e nel caso segnaliamola alla banca, esatto, chiamiamo noi la banca. Allora, Anna Vizzari, quali altri consigli possiamo dare per evitare le frodi, ad esempio nell'uso delle nostre carte di credito, bancomat, prepagate, si avvicinano le vacanze e si spende un po' di più e poi abbiamo, sì, un pochino più la carta così a portata di mano, la facciamo un pochino più semplice perché siamo un po' sollevati, diciamo vabbè in vacanza vado una settimana, me la godo. Piano, sì, direbbe la donna di denari, quindi mi sostituisco un po' a Deborah. La donna di cuore dice, beh, diamoci un po', ogni tanto un po' di soddisfazioni. Esatto, allora innanzitutto diciamo che forse è meglio utilizzare di più la carta che il contante, nel senso che se il contante viene rubato è perso definitivamente. Se la carta viene persa o rubata, almeno abbiamo delle tutele di legge che limitano la nostra responsabilità, a massimo 150 euro fino al momento del blocco della carta. Quindi dal nostro punto di vista meglio utilizzare le carte anche in vacanza. Detto questo, quali consigli? Per esempio non lasciare troppo in mano la carta a terzi quando si paga. però diciamo che questa è una modalità sempre meno diffusa, anche perché di solito il pagamento avviene già inserendo la carta nel POS. Poi tenere sempre sotto controllo i movimenti, adesso si può fare anche online tranquillamente senza aspettare l'estratto conto, e se ci sono dei movimenti strani, dei doppi addebiti, dei pagamenti che in realtà non sono stati fatti da noi, contattare subito il servizio clienti e quindi eventualmente pensare anche ad un blocco della carta. Va bene, allora intanto noi ci fermiamo, siamo in perfetto orario, stiamo per lanciare le informazioni sul traffico. Intanto i nostri ascoltatori Anna Vizzeri ci stanno così scrivendo dei messaggi via WhatsApp e ci raccontano la destinazione delle loro vacanze, perché in apertura ho appunto chiesto dove state andando, quanto vi manca per le vacanze, ma vorrei rivolgere anche un invito a chi le vacanze le ha fatte e sta tornando e quindi ricomincia l'anno. Ma noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo insieme con Anna Vizzeri. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Cuore e Denari. Sono tornata con voi in diretta, sono le 10.46 e in linea abbiamo un'amica di Cuore e Denari, Anna Vizzeri, ufficio studio economico giuridici di Altro Consumo. Stiamo così preparandoci per le vacanze e Anna Vizzeri ci sta aiutando fornendoci tanti consigli utili per gestire in sicurezza i nostri denari e anche il nostro conto corrente, soprattutto quando siamo lontano da casa in vacanza. Allora, abbiamo già dei messaggi. Alessandra, Anna ci scrive: ho attivato il servizio di SMS per ogni addebito delle carte di credito, è immediato e molto utile. Che ne pensa? Anch'io ce l'ho. Io mi trovo benissimo. Assolutamente, sono dei sistemi assolutamente da consigliare, perché appunto si tengono subito sotto controllo gli addebiti che vengono sulla carta e quindi se c'è qualcosa di strano si può contestare subito, evitando addirittura che arrivi poi l'addebito sull'estratto conto, per cui sia assolutamente da consigliare. Ecco, è un po' un prevenire prima di sborsare. Sì, esatto, nel senso che ovviamente le norme rimangono sempre le stesse, cioè anche chi non ha questi sistemi ovviamente ha le stesse tutele, però si evita sostanzialmente di aspettare i tempi necessari al rimborso, quindi si evita già prima che il tutto venga, la spesa fraudolenta venga a essere addebitata sul conto corrente poi. Quindi ti avvertono, ma io li utilizzo anche perché Deborah ormai mi ha educato, perché a fare anche dei conti rapidi, perché quando uno va lì poi dice: ecco, mi hanno già addebitato questo, poi l'altro, eccetera, tiri la sommetta e dici: ecco, la carta me la tengo bella chiusa nel portafoglio. Aiutano a capire insomma che spese si sono fatte, e soprattutto questo può essere utile anche in vacanza, nel senso che ricordiamoci che ogni carta ha un suo limite di spesa, quindi quel limite di spesa non può essere superato nell'ambito di un mese, quindi se il limite di spesa è troppo basso, perché noi già abbiamo preventivato che in vacanza pagheremo l'albergo piuttosto che faremo delle spese di un certo tipo, a quel punto si può chiedere all'emittente, alla banca, di aumentare il plafond, il limite di spesa. Bisogna andare in banca, ci vogliono un po' di giorni, oppure basta telefonare al nostro... Sì, si può telefonare. Si può andare in banca e si può anche telefonare al servizio clienti. Serve qualche giorno, perché di solito l'emittente verifica che appunto il cliente sia in grado di sostenere questo aumento di plafond. Quindi chiederà magari la busta paga del cliente aggiornata per capire che reddito mensile ha. Ecco, quindi bisogna muoversi con un po' di tempo. Esatto, poi con un certo anticipo. Ecco. Alberto, buongiorno. Ci chiama da Treviso. Alberto, sta partendo lei? No, io purtroppo sono di lavoro. È ancora lunga, È ancora lunga. Vabbè, dai. Allora. Io avevo una domanda per la vostra ospite. Sì. Non ricordo dove, avevo avuto come informazione che nell'utilizzo della carta bancomat o carta di credito e per i pagamenti POS era meglio, diciamo, chiedere al negoziante di utilizzare il chip anziché strisciare la carta. Quindi volevo sapere se era veritiera questa informazione e nel caso fosse vera, a questo punto a cosa serve la banda magnetica della carta? Ecco, perché domanda chiama domanda, Alberto. Quindi il chip dovrebbe essere più sicuro dello striscio, che non è lo struscio. Anna. Sì, è vero, il chip è più sicuro della banda magnetica, infatti devo dire che rispetto al passato oramai quasi tutte le nuove carte, le carte di nuova emissione hanno il chip. La banda magnetica resta perché ci sono ancora dei POS di vecchia generazione che non accettano le carte con chip, comunque ci sono dei paesi in cui la migrazione, e soprattutto stranieri, in cui la migrazione non è ancora stata completata, quindi serve per poter utilizzare la carta anche in, appunto, su questi POS di vecchia generazione. Però è preferibile il chip perché dovrebbe essere meno possibile la clonazione della carta. Per cui noi al commerciante, come ha suggerito Alberto, gli diciamo per favore usi il chip. Esatto, come ma di solito devo dire che è abbastanza default utilizzare il chip, perché appunto nel POS di nuova generazione la carta viene a essere letta appunto non con la strisciata ma con il chip. Anna, abbiamo parlato di carte, parliamo di prelievi. Prelevare all'estero, ad esempio, in alcuni casi può essere molto costoso dal punto di vista delle commissioni. Sì, e quindi ecco, e quindi ricordiamocelo, partiamo informati. E quindi? Sì. Allora, quindi vabbè, una certa quantità di denaro in valuta straniera, soprattutto nei paesi in cui non circola l'euro, ovviamente, portiamolo, senza esagerare, perché come detto prima il contante perso, se te lo fregano, rubato, sei finita. Esatto. Poi, se proprio dobbiamo prelevare all'estero, facciamo attenzione alle commissioni, nel senso che le carte di credito sono hanno delle commissioni più alte rispetto alle carte di debito, quindi per intenderci la carta bancomat nazionale utilizzabile anche sul circuito internazionale. E quindi questo perché? Perché con la carta di credito, se si preleva contante, si fa un anticipo di contante, quindi è come se l'emittente ci concedesse un piccolo credito. Quindi meglio prelevare col bancomat. Sì, internazionale, esatto, sì. Dalle nostre ultime rilevazioni è così. Bravi. Allora, lo smarrimento della carta e poi la saluto perché vado a mangiarmi un gelato. Ah, caspita, no, anche qua io vorrei un gelato. Ecco, ma lei è cono o coppetta? Io cono, assolutamente, è molto per me, più gustoso. Sì, gelato, cono, una esatto. Bella cialda, coppetta. Io mi porto addirittura, quando prendo il gelato, mi compro i coni a parte se lo mangio a casa. Ah, certo, è vero. Perché certo, insomma, devo mangiare il cono anche a casa. Esatto. Comunque, chiudiamo la parentesi e poi la approfondiremo. Se noi invece perdiamo la carta, perché può capitare, cosa dobbiamo fare? Quali sono le cose da fare subito? Naturalmente la blocchiamo, ma non so, a lei non capiterà, ma a me che sono disordinata e metto le cose, dico mi devo ricordare, sono qui, poi un po' capita questa cosa, non sai più dove, cosa fare, dove trovare, dove hai messo i codici, certo. E perdi la testa. Allora ci dia due dritte. Allora, il consiglio da dare è quello di tenere sempre sotto mano, in qualche modo, con una fotocopia, con una foto, il numero della carta di credito e il numero da chiamare in caso di emergenza. Devo dire che questi numeri di emergenza oramai si trovano anche online, sì. Perché se si va sul sito della propria banca, in fondo nell'home page c'è sempre la dicitura contatti utili e lì ci sono i numeri di emergenza, quindi questo già ci facilita un po' il blocco della carta. Di solito appunto viene chiesto, quando si blocca la carta, anche il suo numero. È vero che in realtà l'ente emittente potrebbe anche risalire al numero dal nome del titolare, però se si conosce già il numero si facilita il tutto. Quindi noi consigliamo comunque di fare una foto sul cellulare e bella la foto. Esatto, della carta e fantastico. Così si ha a disposizione. Ricordiamo anche che se si è all'estero e si ha bisogno di una carta di credito, c'è la possibilità di chiedere una carta sostitutiva d'emergenza. E dove che l'emittente poi invia, dopo di solito 48 ore, presso una banca del luogo del suo circuito di convenzionamento. Quindi potrebbe essere una soluzione se si ha bisogno assolutamente di una carta, si è rimasti senza carta e si è all'estero, per esempio. Anna Vizzari, noi parleremo tra poco di gelato, di un tipo di gelato, il gelato sospeso, una sorta di caffè sospeso, un'iniziativa molto bella che ci sta a cuore, e poi parleremo di ragazzi, di adolescenti in vacanze. Allora, bene. Prima di salutarla, le chiedo di dare un consiglio ai genitori all'ascolto. Pensando ai minori che viaggiano da soli, magari per una vacanza studio, quali potrebbero essere le soluzioni migliori e quindi più sicure per dare ai ragazzi una disponibilità economica da utilizzare in caso di necessità? Sì, allora in realtà non è che ci siano molte possibilità. Per un minorenne l'unica possibilità è quella di avere in mano una carta prepagata, lui intestata, chiesta dal genitore, ce ne sono molte disponibili per i minorenni, di solito dai 12 anni in su, si chiede appunto in banca, ci sono anche alcuni emittenti che fanno fare la richiesta online, cioè la famosa carta PostePay di Poste Italiane. Ce ne sono moltissime, il confronto si può fare anche sul nostro sito altoconsumo.it e sostanzialmente è utilissimo perché può anche essere la prepagata ricaricata a distanza dal genitore, quindi se il ragazzo all'estero ha bisogno di ulteriore disponibilità di denaro si può appunto papà fare e la mamma ricarica. Ecco, ricaricano. Esatto, e peraltro è molto più sicuro del contante perché come dicevo prima la legge ci tutela maggiormente con una carta. Anna Vizzari, grazie, buone vacanze anche a lei. Buone vacanze, grazie. Allora, per me è solo cono, gelato con il cono. Voi siete di cono, di coppetta, possiamo anche parlarne, ma soprattutto parliamo di questa bella iniziativa del gelato sospeso. Ce la facciamo raccontare da Maria Grazia Passeri, presidente dell'associazione Salva Mamme. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci spiega, abbiamo giusto un minutino per... Allora, minutino, Salva Mamme tutto l'anno dà pane, pasta, sugo, zucchero, l'essenziale. Sì. E veste i bambini e dà una mano a migliaia di famiglie. D'estate il gelato è una coccola, non si muore senza gelato, ma il gelato strappa il sorriso ai bimbi. Ve lo sintetizzo, tutte le gelaterie che hanno voglia possono scaricarsi dal sito del Salvamamme, del Salvamamme la locandina e ci danno comunicazione e possono dare alle famiglie che richiedono un cono, una coppetta, quello che richiedono, va bene? Lasciando libera la propria clientela di pagare un cono anche alla famiglia non abbiente che passa dopo. Certo. Ecco, questo è l'essenziale. La cosa carina è che, per esempio, oggi abbiamo avuto una mail di una mamma che diceva che tutti i giorni la sua bambina passava davanti alla gelateria e le venivano le lacrime agli occhi. Adesso può mangiarsi un gelatino una volta alla settimana, due. Ecco, quindi alle gelaterie, l'invito è duplice, alle gelaterie che possono scaricare il programma e aderire a questa bella iniziativa, ma un privato può anche farlo autonomamente? Può andare alla propria gelateria e dire ti prego fai questa cosa carina. Ecco, che ha ideato Salva Mamme. Mangia il gelato, regala un sorriso. Grazie a Maria Grazia Passeri e complimenti per questa... Il segnale orario vi è offerto da... Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Cuore e denari. Mi piace un sacco, quasi come il cono con cioccolato e pistacchio. Sono tornata, come anticipavo a Marta, nel collegamento con il nostro GR. Dedichiamo questa parte di trasmissione fino ai mercati all'estate 2.0 dei nostri ragazzi, sdraiati o spiaggiati per chi può e connessi. Sono questi i due aggettivi che tanti di noi genitori utilizzerebbero per così raccontare i propri ragazzi in questa fase dell'estate. I Grest in molti casi sono finiti, noi genitori stiamo ancora lavorando e loro, i nostri figli, bambini, ragazzi, hanno un'intera giornata davanti a sé, una giornata da riempire. E spesso le tecnologie, lo sappiamo bene, servono a riempire questo vuoto. Però ci sono anche naturalmente degli effetti collaterali che noi oggi andremo ad analizzare insieme ad un grandissimo esperto che è soprattutto un grande amico di Cuore Denari, Alberto Pellai, medico psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Autore di bestseller che Alberto veramente stanno avendo grandissimo successo, copie. Alberto. Per fortuna. Allora Alberto, ci sono due temi importanti che oggi vogliamo proporre ai nostri amici come tema su cui riflettere, ma anche come piccolo sondaggio istantaneo per così attivarli a partecipare. Sì, sono legati anche al fatto che se ne è parlato davvero tanto sui giornali. Uno è, ha fatto molto discutere il, quello che è successo negli Stati Uniti, dove un'associazione molto, molto ricca di genitori, molto numericamente molto qualificata di genitori, ha voluto fare una proposta al proprio Stato chiedendo che venisse introdotta un'età minima sotto alla quale non è possibile consentire a un minore di avere in mano un cellulare e di accendere un abbonamento sul proprio cellulare. E quindi per la prima volta ci si è trovati di fronte come famiglia e come genitori all'idea che il cellulare possa essere trattato come il tabacco o come l'alcol, e quindi immaginato come qualcosa che può fare danni, certo, sulla salute e sul benessere dei figli, con la necessità perciò che lo Stato ne regolamenti l'utilizzo definendo l'età minima, un po' come dire la patente. Al di sotto dei 18 anni, anche se sono in grado potenzialmente di guidare un'automobile, lo Stato dice è meglio che non lo facciate per il bene vostro. Non hai l'età, Alberto, esatto. Non hai l'età. Tra l'altro, esatto, tu ne hai parlato in un articolo che è stato molto condiviso sul web, che anche noi oggi mettiamo sulla pagina Facebook della nostra trasmissione. In ogni caso, direi che nei tuoi due ultimi best seller, che sono pubblicati da De Agostini, L'età dello tsunami è tutto troppo presto, tu da tempo hai un po' questa mission, questa intenzione, che è quella di invitare i genitori a fare attenzione alla vita online dei loro figli. Quindi tu tu sei assolutamente in linea un po' con questo gruppo di genitori americani? Ma guarda, più che pensare che c'è bisogno di una legge dello Stato, io penso che c'è bisogno di un progetto educativo nella mente dei genitori che decidono che il proprio figlio è pronto a gestire una tecnologia, uno strumento tecnologico così complesso come lo smartphone. Per cui quello di cui mi sono reso conto come terapeuta, che poi un po' mi ha spinto anche a scrivere questi libri per genitori, è il fatto che le tecnologie si sono precocizzate tantissimo nella vita dei figli. E noi genitori, mentre 10 anni fa autorizzavamo un figlio adolescente alle scuole superiori ad avere il proprio primo smartphone, adesso invece autorizziamo un figlio di 8 anni, di solito il regalo della prima comunione, uno dei più frequenti è proprio il cellulare, e quindi ci troviamo un po' con questi nanetti di 8 anni che hanno in mano una sorta di Ferrari. Nanetti che sul cellulare, sullo smartphone, passano tante ore. Sono andata a ripescarmi i dati dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza su oltre 8.000 ragazzi di circa 18 regioni italiane. Circa 5 adolescenti su 10 dichiarano di trascorrere dalle 3 alle 6 ore extrascolastiche, era stato fatto in tempo di scuola, con lo smartphone in mano, e il 16% dalle 7 alle 10 ore. E c'è poi un 10% che supera abbondantemente la soglia delle 10. Quindi tu dici è come usare una Ferrari, ma passarci anche tante ore. Sì, poi in realtà il tempo magari non è un tempo continuo, no, con loro che hanno l'occhio fisso e pallato sullo schermo dello smartphone, ma è un tempo di connessione che non si interrompe mai e che quindi li porta ad avere il cellulare sempre in mano, sempre lì vicino, con una frammentazione incredibile di tutte le attività nelle quali loro si coinvolgono, e questa frammentazione in realtà impatta poi in modo potente anche per esempio la qualità del loro studio, la qualità dell'attenzione, il modo in cui stanno in relazione con gli altri nella vita reale, eccetera eccetera. Allora, ai nostri amici chiediamo se vi piacerebbe che lo Stato mettesse un'età minima per dotare un minore di un cellulare, oppure questa vi sembra una misura inutile, fuori luogo, un po' un'americanata. E secondo voi quale dovrebbe essere l'età minima che voi scegliereste per mettere in mano un cellulare vostro figlio? A quale età gliel'avete data? Ma un altro tema che su cui vorrei coinvolgere gli ascoltatori e discutere con te, Alberto, è un tema che tu hai trattato sulla tua pagina Facebook e che ho visto generato migliaia di visualizzazioni. Mi stai diventando un guru, Alberto. Ma più che un guru, credo che questi sono proprio temi su cui noi genitori abbiamo bisogno di confrontarci, produrre pensiero e verificare poi eventualmente nell'incontro e nel confronto con gli altri qual è la cosa migliore per i nostri figli. Tu lo sai però, senti, per adesso parliamo della password, ma intanto te lo voglio dire, lo sai che Laura Vanossi, che è molto attiva anche nelle chat delle varie mamme, dice che insomma lei aggiunge punteggio al suo curriculum perché ti conosce, perché le mamme sono pazze di te. Questo lo voglio dire anche a tua moglie che probabilmente ci sta ascoltando. Parliamo di questo tema, della password sul cellulare di un figlio. Tu dovresti avere anche una buona memoria perché di figli ne hai 4, ecco, e le conosci oppure vorresti conoscerle? Allora, la regola in casa nostra è stata che fino ai 15-16 anni la password del cellulare di un figlio è comunque nota anche ai genitori. E, in generale mi sento di dire che questa è una buona regola per tutti i genitori. C'è tantissima confusione in questo momento nei genitori perché spesso succede che un figlio di 10-11 anni dice alla mamma e al papà: io metto la mia password sul mio cellulare perché quella è una mia zona di privatezza, di privacy, e non voglio che voi la invadiate. Per cui i genitori si domandano: ma diventiamo intrusivi o invasivi se noi conosciamo la password del cellulare di un figlio? E io anche nell'articolo ho provato un po' a dire ai genitori che la privacy a cui ha diritto un figlio è per esempio quella di chiudersi in bagno a chiave, di non essere disturbato quando è chiuso dentro al bagno, oppure quella di compilare un proprio diario privato e di chiuderlo in un cassetto della propria camera. Ma nel momento in cui entra in un social che è abitato e popolato da tantissime persone che non sappiamo chi sono, cosa fanno, che cosa chiederanno ai nostri figli, in che cosa li coinvolgeranno, ecco, può proprio essere che a 11, 12 o 13 anni l'occhio che fa, non che spia, ma che fa un monitoraggio dall'alto, una sorta di supervisione, di sostegno alla crescita del genitore è molto molto necessario. Ed effettivamente i ragazzi che si mettono più nei pasticci sono spesso ragazzi che sono rimasti soli, veri e propri orfani nella loro vita online. Conoscete la password del cellulare di vostro figlio? 800 24 00 24. Alberto, passano tanto tempo, sono connessi, hanno sempre lo smartphone a portata di mano perché arriva il messaggio, fanno più cose contemporaneamente, ma quello che tu così racconti e su cui inviti i genitori a riflettere è che questa frequentazione, questo utilizzo dello smartphone, di questa seconda vita, insomma, dei nostri ragazzi, lì in qualche modo li condiziona e li cambia. Ci sono delle ricerche molto interessanti su questo aspetto. Ad esempio, si fa riferimento al numero dei like. Averne tanti per il ragazzo equivale a tante approvazioni e questo aumenta l'autostima, la popolarità e quindi la sicurezza personale di nostro figlio, ma nello stesso tempo lo rende anche un po' fragile. Cercano i like come approvazione e se non ce li hanno il loro umore va giù, precipita. Alberto. Sì, paradossalmente in realtà nel fare questa operazione, no, di ricerca della popolarità e di contare i like che ottengono con la nuova foto del loro profilo, che magari cambiano ogni 2 settimane, in realtà si fanno male, attentano proprio un po' alla loro autostima, perché spostano tutta la valutazione di sé, l'attribuzione di valore a qualcosa che sta fuori da loro, a qualcosa che loro non possono controllare, mentre avere una buona autostima significa sviluppare quello che si chiama il locus of control, un luogo di controllo interno, cioè una sana percezione e consapevolezza di noi, della nostra forza e delle nostre fragilità. Questo stare costantemente tesi alla ricerca dell'approvazione degli altri è molto nociva, perché come dicevi tu, un giorno magari la nuova foto riceve 100 like e allora vanno sulle stelle. Il giorno dopo ne ricevono 20 soltanto, tanto in meno della foto precedente, cominciano a rimuginare, a domandarsi cosa c'è che non va, e magari semplicemente quella foto lì non è stata pubblicata un'ora in cui non c'era nessuno connesso, quindi certo, entrano ma... Alberto, scusami, proprio ti ho interrotto, ma proprio per avere dei like, i nostri ragazzi, ho letto, che si sfidano, ci sono delle sfide tra l'altro virtuali, alcune un po' pericolose, che hanno proprio l'obiettivo di far ottenere più like possibili. Eh sì, questo poi è l'altro aspetto, no? In un territorio dove non c'è un presidio educativo, dove non c'è un adulto che fa una supervisione e dove un po' l'esibizionismo e il narcisismo diventa l'elemento cardine per ottenere attenzione e popolarità, ecco, la tendenza poi è quella di diventare un po' sempre più estremi, per cui abbiamo il fenomeno del sexting, che è la pubblicazione di foto che sono magari sempre più connotate sessualmente, sempre più seduttive, a volte vere e proprie piccole tracce quasi simili alla pedopornografia, che possono essere chiaramente molto pericolose, molto autolesive. Abbiamo le sfide che vengono fatte online, per cui ci si sfida a fare delle cose estreme e molto pericolose per poi postare questi video e vedere quanta popolarità e quanti like otteniamo. È chiaro che in questa gara, no, che è un po' fuori dal principio di realtà, perché nella virtualità è difficile stare dentro al principio di realtà, i nostri figli possono davvero farsi molto male, quindi è proprio importante anche che ci sia l'adulto che a volte mette un confine chiaro che non può essere oltrepassato. Rischiano di fare tutto troppo presto, che è il titolo del tuo libro, che ha avuto grande successo, in cui tu scrivi che anche rispetto ai comportamenti sessuali i minori hanno un rischio più elevato. Sì, poi proprio il focus di tutto troppo presto è stato proprio aiutare i genitori a recuperare due aspetti. Uno, il bisogno di essere loro gli educatori sessuali e affettivi dei propri figli, e due, un po' monitorare quello che i figli fanno nell'online, soprattutto nella zona della preadolescenza, perché questa è quella fase della vita dove la pubertà attiva automaticamente la sessualità nel corpo e nella mente dei nostri figli, e questa sessualità deve chiaramente essere educata e in parte anche autoregolata. Nell'online non c'è nessun meccanismo di autoregolazione, e quindi un po' i fenomeni che racconto nel libro sono quelli, uno, della pornografia online, alla quale i nostri figli hanno accesso sempre più intensamente e sempre più precocemente, e che quando hai 11 o 12 anni può essere davvero davvero pericolosa e mettere in serio rischio un po' tutto il percorso di sviluppo sessuale. Ecco Alberto, ti puoi fermare su questo aspetto, perché non è una frase da bacchettone. Ci sono, tu hai studiato bene, conosci bene anche lo sviluppo del cervello nell'adolescente, e capitano delle cose. Adesso le neuroscienze ci permettono di capire molto di più e quindi di dare una spiegazione a dei comportamenti che noi abbiamo etichettato, sono ragazzi. Alberto, spiegami per bene. Allora, le neuroscienze dicono che il rischio in realtà da una parte è quello della dipendenza, cioè io mi avvicino a uno stimolo che è di grandissima intensità, che provoca un'eccitazione velocissima, che attiva perciò in modo molto molto intenso, come non potrebbe mai succedere nella vita reale, una zona del mio cervello che poi si abitua a quel livello di intensità e che quindi va a cercare sempre di più quel genere di stimoli. Da una parte tenendo il ragazzo fortemente connesso a quel genere di immagini e di stimoli, e dall'altra parte poi impedendogli di vivere una sessualità sana nella vita reale, perché nella vita reale nulla sarà mai così facile e così intenso come lo stimolo pornografico che con un click noi riusciamo a ottenere online. Allora, i nostri ascoltatori, ti leggo un sms e poi andiamo subito a sentire Nino da Bari. Da padre di un dodicenne trovo lo smartphone per i ragazzini totalmente fuori luogo. È pericoloso, visto che possono usarlo malamente anche a nostra insaputa. Ma che fare? Trasformarlo in eremita o darglielo come i suoi amici? Questo ci scrive Andrea da Modena. Alberto, i genitori si interrogano su questo, perché non puoi renderli mosche bianche, eremiti. Bisogna forse dare delle regole, ma ancora prima poi dobbiamo metterci nella condizione di essere autorevoli, così che i nostri figli rispettino queste regole, questa sorta di patto. Quello che dice Andrea è il dilemma di tutti noi che siamo papà e mamme dei nostri figli. Io, come genitore, noi a casa nostra abbiamo messo la regola che lo smartphone sarebbe entrato nella vita dei nostri figli alla fine della terza media, e per evitare che diventassero mosche bianche abbiamo fatto due cose. Uno, ha sostenuto tantissimo la loro vita sociale nel reale, quindi possono incontrare tanti amici, invitarli a casa. Il secondo aspetto è che i loro gruppi WhatsApp sono stati messi all'interno di uno smartphone di famiglia e quindi in qualche modo possono continuare a rimanere socialmente connessi all'interno di quei gruppi WhatsApp. Ecco, ma la percezione chiara è che essendo quello uno smartphone di famiglia, c'è un occhio, una supervisione da parte degli adulti. Quindi tu hai fatto uno smartphone familiare. Sì, dove loro sanno che possono rimanere in contatto e anche per noi genitori è diventato molto più facile poterlo regolare in termini di ore in cui si può consultare e ore invece in cui è vietatissimo farlo. Ci hai dato già delle indicazioni molto concrete, come quelle che piacciono a noi. Nino, buongiorno, ci chiama da Bari? Sì, buongiorno. Buongiorno Nino, lei cosa pensa? Senta, io penso che sia un po' ipocrita quello di devolvere ai genitori la responsabilità di controllare i figli con il telefonino, perché tanto non è possibile. E mentre invece, siccome noi utilizziamo uno strumento tecnologico straordinario come il telefonino, lei giustamente l'ha chiamata una Ferrari, potremmo devolvere ai provider la possibilità di fare dei contratti telefonici per minori che impediscano la navigazione in certi siti. Questo consentirebbe di avere una certezza di utilizzo da parte dei ragazzi, sì, senza impedirlo e senza essere così, a mio avviso, scioccamente ipocriti nel dire al genitore: devi controllarlo tu, perché tanto poi non ci riesce. Lei dice non ce la riesce. Mettiamo ai voti la proposta di Nino da Bari, 800 24 00 24. Alberto, io non credo che però sia ipocrita dare ai genitori un po' la responsabilità del controllo dei figli, che fa parte anche un po' dell'educazione. Però Nino ha esposto, sicuramente dice magari si eviterebbe di, e quindi la cosa diventerebbe anche un pochino più facile da gestire. Ecco, io penso che in effetti sia complesso, però all'interno di una sorta di patto di trasparenza e di chiarezza, dove soprattutto diciamo queste cose per i più piccoli, no? Sotto i 13-14 anni sono davvero ancora tanto piccoli, hanno davvero tanto bisogno degli adulti di riferimento, non che li spino o li controllino, ma in realtà che li sostengano e li educhino. Perché altrimenti rischiano di farsi del male. Bravo, perché oggi è lo smartphone e domani sarà un'altra sfida. Esatto, educare poi bene all'uso delle tecnologie, avendo un presidio educativo del territorio della vita online di un figlio, significa poi dargli delle competenze che gli serviranno in altre aree della vita. È vero però, come diceva Nino, che ci sono degli abbonamenti specifici pensati per i minori. E per l'esperienza che ho io però con molti genitori è che non vengono scelti, cioè i ragazzi chiedono immediatamente un abbonamento con tantissimi gigabyte per essere completamente liberi di navigare tutto il tempo che vogliono, e spesso i genitori non avvertono che in quella richiesta c'è invece uno spazio che va un po' negoziato, regolato e contrattato, e dire: questo è l'abbonamento che avrai a 16 anni, magari a 10-11 anni andiamo un po' più lenti, più slow. Esatto. Alberto, oggi abbiamo parlato dei giovani, della connessione, di giovani che stanno spesso svegli fino all'alba a chattare, parlare, giocare, o anche fino ad aver paura di rimanere senza telefono, senza connessione ad internet. Ma diciamo che la verità questi profili li ritroviamo anche negli adulti, a cui dedicheremo un'altra puntata. Intanto, Alberto, grazie. Mercati. Yeah. E poi ci troviamo insieme per un nuovo argomento. Si avvicina la fine della settimana, per molti questo significa andare incontro all'appuntamento col mal di testa, preveniamolo, e allora cosa fare? La parola all'esperto e poi parleremo di pelle. Mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. La mia testa. bella vita del filibustier. Eccola qua, calda spugna. Il capitano ha un terribile mal di testa. Non bisogna far chiasso. Conosce e vorrebbe proprio evitarlo, d'altronde è una compagna di vita che spinge a rinunciare spesso alle attività sociali, agli svaghi, alle vacanze, ai weekend fuori porte, che rende anche il lavoro ancora più faticoso. Il vero problema però è che spesso chi soffre di mal di testa non sa dare un nome al suo problema, allora che fa? Si attrezza peggiorando spesso la soluzione, oppure che fa? Si rassegna, dice: intanto per il mio problema non c'è soluzione. Oggi abbiamo in linea con noi il professor Piero Barbanti. Buongiorno al professor Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno, bentrovati tutti. Professore, iniziamo a capire di che tassa stiamo parlando. Il mal di testa è un sintomo, una malattia, una scusa? Partiamo dalla fine, non è una scusa neanche per i bambini che quando hanno mal di testa vanno ascoltati senza timore e seguiti. Può essere un sintomo, ma molto raramente. Per esempio ho la febbre, per esempio ho un picco di pressione, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono inutili prove tecniche di trasmissione, e cioè un cervello ipereccitabile che segnala pericoli che non ci sono, perché il dolore serve a segnalare i pericoli, oppure gli emissari del cervello, i suoi nervi periferici, il trigemino, il nervo grande occipitale, che scoppiettano allegramente come ciocchi dentro il camino, ma non è successo nulla. Quindi un'inutile prova muscolare, che è la prima malattia del mondo, fa soffrire l'intero genere umano. Ma noi oggi vogliamo aiutare le persone che soffrono di mal di testa a riconoscere la cefalea di cui soffrono, e ci sono delle indicazioni, perché è importante, come abbiamo detto, capire quando il mal di testa si manifesta, ma anche come e dove va a colpire, e poi soprattutto non cadere in delle luoghi comuni che fanno diagnosi secondo dei detti popolari, che alla fine si sono visti assolutamente ingiustificati. Andiamo allora a sentire la nostra scheda, che sicuramente ci dà una mano. Il mal di testa ha cadenze regolari oppure ti sorprende come la visita di un ospite sgradito? Il dolore compare periodicamente nello stesso punto, oppure ultimamente ha cambiato sede o è diventato diffuso? La notte ti porta a consiglio o cefalea? E il fine settimana? Se hai mal di testa, provi con un caffè o con un analgesico. Riesci a spegnere il dolore oppure ti rassegni e aspetti che passi? Pensi che sia la cervicale la colpevole? Credi sia la sinusite ma non ti culla il naso? Ma professore, quando scoppia la testa, che succede nel nostro cervello? Insomma, oltre al danno, perché il mal di testa è davvero fastidioso, rischiamo di avere anche la beffa? È possibile, in sostanza, che il mal di testa produca danni a livello cerebrale ed essere, che ne so, responsabile, la butto lì, di una diminuzione delle facoltà cognitive, quindi alterare i meccanismi dell'attenzione o quelli della memoria? Beh, intanto tranquillizziamo i nostri ascoltatori, che temono spesso che scoppi la cosiddetta vena in testa. Questo per fortuna non avviene quasi mai. Ricordiamo che il presidente Andreotti era un famoso cefalalgico, e quindi la risposta alle facoltà cognitive è già fatta, non c'è questo rischio. È però vero una cosa per chi soffre di mal di testa ripetuti, che da un punto di vista neuroradiologico si vede che soffre. E da che cosa si vede? Si vede dal fatto che spesso queste persone, se fanno la risonanza, si allarmano per dei piccoli segnetti che vengono descritti dai radiologi, che altro non sono che le firme dell'attacco emicranico. Cosa vuol dire firma? Avete presente cosa succede a scrivere su una scrivania con il foglio senza sotto il blocco? Rimane solida e valida lo stesso, ma vista contro luce si capisce che qualcuno ha scritto senza poggiare sotto qualcosa, e questo succede forse per fenomeni ossidativi nel cervello del cefalalgico, specie dell'emicranico. Ad esempio, un ascoltatore ci dice: mal di testa dalla mattina appena sveglio per 4 ore, zona sopra il sopracciglio. Manca anche qualche altro dettaglio, vero professore? È un po' scarno. Bisognerebbe sapere quanto è forte, come si comporta e se ha altri sintomi, però potrebbe venire in mente per esempio ad un'emicrania. L'emicrania alcune volte abortisce da sola, nasce tipicamente al mattino, il paziente non se ne riesce a fare una ragione, però dopo aver fatto colazione, dopo aver preso magari il caffè, che può essere un aborti,

che lei buongiorno a tutti, è già grazie. Una vecchia conoscenza di Essere Benessere, di Cuore Denari. Allora, intanto, dottoressa Sparavigna, ci vuole metodo anche per osservarci davanti allo specchio, oltre che a una certa distanza, no? Insomma, certamente, da non ingigantire le cose. Allora, ci impresti il suo occhio clinico per un'osservazione attenta della nostra pelle? Io partirei proprio dal colore. Che informazioni ci dà? Allora, per quanto riguarda il colore, prima di tutto dobbiamo, se siamo davanti allo specchio, vedere se la manifestazione è generalizzata oppure è localizzata in determinati punti. Sì. E se è localizzata in determinati punti, vedere se è simmetrica, quindi se è bilaterale. Certo. Perché queste informazioni sono molto importanti per capire quanto c'è di costituzionale, quanto c'è di patologico o quanto c'è di ambientale. Ad esempio, un rossore che compare soltanto in una determinata zona del viso, soltanto da un lato, molto probabilmente è un rossore di origine esogena, quindi magari da contatto oppure magari da trauma meccanico. Invece, se noi tendiamo a arrossarci in determinati momenti della giornata, questo sarà un rossore generalizzato. Certo. E poi il rossore può essere dovuto anche a delle condizioni di irritazione da sostanze esterne, quando per esempio si utilizza il cosmetico sbagliato, oppure può essere un'alterazione del microcircolo. Quindi è molto importante osservare tutte quelle che sono le cause scatenanti di questo rossore e direi anche la sintomatologia soggettiva che si associa, quindi se abbiamo una sensazione di pelle che tira, se abbiamo una sensazione di prurito, se abbiamo una sensazione di calore, sono tutti elementi che ci servono aiutano a nella fare nostra il quadro. Indagine. Allora Nives, vada con la sua domanda. Allora, io volevo chiedere, io ho 55 anni e non ho una ruga. Diciamo che ho sempre curato la mia pelle bene, eccetera, creme, bla bla bla. Bla bla. Volevo chiedere, per quanto riguarda il fattore, diciamo, di prevenire le rughe. Ma ormai non le vengono più, scusi Nives, a 55 anni non c'ha una ruga, io vorrei mettere giù, cioè... No, dottoressa Sparavigna. La bravissima estetista, che è la madrina di mio figlio, che allora, ha sempre senta Nives, vada alla sua domanda perché i nostri centralini fumano. Vada, allora, lei cosa vuole sapere? Acido ialuronico. Serve o no? Usarlo per bocca aiuta la pelle, sì o no? Dottoressa Sparavigna, questo acido ialuronico serve davvero così tanto? Spiana le rughe, ci fa diventare belle, ci regala gioventù e giovinezza? Utilizzato localmente e iniettato nella pelle, sì. Come integratore diciamo che ha un'efficacia abbastanza relativa. Lei comunque adesso, se vuole un consiglio proprio professionale, ha già superato quella fase della vita in cui si avvicendano e si accelerano le rughe, che va dai 40 ai 50 anni. Oltre quest'età il problema non è più tanto la ruga quanto l'anarchia dei volumi del volto. Quindi bisogna soprattutto osservare i volumi, perché sono quelli che ci danno l'aspetto più invecchiato, l'aspetto più stanco, e quindi bisogna lavorare soprattutto in quel senso, rassodando la pelle e non più pensando soltanto alle rughe. Professor Borellini. Applicando tutti i giorni dei prodotti buoni, con degli ingredienti buoni, la pelle ringrazia perché l'idratazione... gli antiossidanti sì, aiutano ma professor tantissimo. Borellini, quali sono questi buoni, questi cosmetici buoni? I cosmetici buoni sono che... quelli dove dentro ci sono dei principi attivi buoni. Una crema e un cosmetico è come un piatto di uno chef stellato. Se ci sono ingredienti buoni viene fuori un piatto gustoso, se c'è riso bianco e olio di colza viene una schifezza. Quindi non esiste una classifica dei prodotti buoni. Esistono delle formule buone e delle formule cattive. Per quello che è importantissimo decodificare le etichette. Perché andando a vedere quello che c'è all'interno degli antiruga, ad esempio, si possono fare delle selezioni. Pensiamo ad esempio agli estrogeni vegetali. Chigellia africana. È una pianta di origine africana che ha la capacità di ridensificare la pelle. Subito, aspetti. Ma tra l'altro in etichetta è scritto così, Chigellia. Fantastico. Poi... fantastico, il burro di karité. Salviamoci la pelle, che bello brucia, è quella lì, prendiamo la... Darei la precedenza, se voi siete d'accordo, ai brufoli e brufolini. È un problema molto sentito, soprattutto in questi ultimi anni. Per tempo i brufoli sono stati sempre considerati un sinonimo, un disturbo dell'età giovanile, adesso compaiono anche in pelli più mature. Allora, lo stress è un problema dovuto agli ormoni. Questa acne tardiva, la chiamate così, dottoressa Sparavigna? Sì, acne tardiva o acne dell'adulto. Ed è in costante aumento. È in costante aumento per una serie di motivi. Può essere dovuta all'uso di cosmetici sbagliati, può essere dovuta ad alterazioni ormonali, e di solito l'acne da alterazione ormonale è un po' caratteristica, perché colpisce soprattutto il mento, colpisce soprattutto il collo, con delle lesioni molto dolenti e che hanno un'evoluzione molto lunga. Sì. Quindi questo veramente non passano mai, a volte residuano delle macchie al posto della lesione, quindi per delle donne, certo, in età adulta è veramente un problema estetico. Mentre quella per grande. Cosmetici è un po' diffusa in tutto il viso? Sì, quella per cosmetici è caratterizzata dal fatto di avere delle micropapuline. Noi la chiamiamo acne microcomedonica. Mm. E quindi quando vediamo un'acne con queste micropapule diffuse su tutto il viso, pensiamo sempre all'utilizzo di un cosmetico sbagliato, che di solito è un cosmetico occlusivo, certo, quindi che occlude la superficie della pelle e che a lungo andare, questo per esempio lo possono fare anche i prodotti di make up, che molto spesso sono ricchissimi di siliconi. I siliconi danno questo aspetto vellutato alla, sì, pelle, ma in realtà occludono i pori. Quindi questo vuol dire che dobbiamo guardare le etichette, sì, e eliminiamo i nostri tra i prodotti da trucco, quelli con il silicone. E con gli oli minerali. E con gli oli minerali. Quindi i derivati del petrolio, petrolatum, paraffinum, certo, liquidum in etichetta, questi sono anche questi... forse ancora più occlusivi, perché sono proprio molto, molto densi anche. Ecco, ne abbiamo parlato e questa è un'occasione, siamo tutti amici di Riccarda Servi, infatti, un'occasione per ricordarlo, perché è stata una grande battaglia di Riccarda. Abbiamo fatto tantissime puntate proprio, no, per raccontare e suggerire ai nostri ascoltatori come scegliere e perché eliminare, no, queste sostanze, evitarle e quindi risparmiare la salute della nostra pelle e quella dell'ambiente. Io mi vorrei riagganciare a Riccarda, perché ho avuto l'onore di fare uno studio insieme a lei, oltre che e altre avventure professionali, e con Riccardo avevamo fatto proprio uno studio di questo tipo, avvalendoci del mio laboratorio di ricerca che fa ricerca sui prodotti cosmetici. Avevamo analizzato due gruppi di donne che fanno abitualmente utilizzo del make up e del fondotinta, e donne che invece non fanno utilizzo del, sì, fondotinta, e effettivamente le differenze a parità di età erano notevoli, soprattutto in quella manifestazione che possiamo dire in maniera comprensibile da tutti, pori dilatati. Le donne che fanno utilizzo continuativo e costante di un fondotinta contenente oli minerali, contenente siliconi, hanno una problematica di invecchiamento cutaneo aggiuntiva, quella dei pori dilatati. Allora, per oggi abbiamo concluso. Io come sempre vi aspetto domani, sempre puntuale alle 10:30. Nel frattempo, come si dice, statemi bene. Buon pomeriggio da Nicoletta.